1, 2, 3. Eldrei! Popodai! Ho aspettato una colla! E sa! Guarda! El vestai poi si reclama il telcom! Io mon allo franzo! Insomma, Peppe alle ame in Shahaja! O hai ardi! Insomma, Franz! Ma non è Peppe! Hai apriamo il com ci vestai canzonette! Della Valvada! Paloma e da il famo prim o te per te o rosso o te per te o li holleri all right sallo ali con colla alessa.